Ciao, buongiorno. Allora, il tuo monologo, diciamo così, almeno ascoltandolo, sembra nato da una necessità, no? Di raccontare il presente, è così? Sì, diciamo che in generale anche raccontare il presente, forse più che il presente, quello che mi viene a chiamare nel suo complesso la realtà, è un po' quello che cerco di fare nella vita, anche proprio nel teatro che faccio insieme alla mia compagnia, Capitale 452, di stare addosso alle cose che succedono per cercare di strapparle al quotidiano, alla cronaca, no? Questo luogo un po' purgatoriale in cui è il nostro presente, e provare a metterle in una cornice un po' più grande, un po', ecco, guardare un po' più in prospettiva. La prospettiva sicuramente almeno è quella dell'ultimo anno di pandemia, ma non solo, perché, come dire, hai parlato della situazione pandemica, ma anche della gestione con un certo modello socio-economico di questa pandemia. Sì, perché cioè a volte poi sembra che, no, le scelte che vengono fatte siano irrelate da qualunque logica, mentre e siamo da guardare, no, una per una, il coprifuoco, il lockdown. Invece, diciamo, quelle scelte dipendono da delle scelte più ampie, che sono scelte di dove ci si colloca all'interno del sistema economico, e il coprifuoco vuole dire una cosa specifica, cioè non è soltanto che limita la circolazione da una certa ora a una certa ora della giornata, restituisce proprio un'idea di come debbano vivere i cristiani, cioè che l'importante è produrre, fare le cose, e tutto quello che riguarda, chiamarlo svago secondo me è un po' avvilente, cioè proprio quello che riguarda l'esplorare l'altra parte di sé, cioè quella che, no, non è perfettamente razionale, non è perfettamente immediatamente impiegabile all'interno del sistema produttivo, è importante. E coprifuoco è una scelta che, insomma, può anche essere vista in maniera un po' simbolica, no? Mi sembra abbastanza un segno forte di quello che, di un certo modo di intendere la vita e come debba essere vissuta. Ecco, diciamo che quello che ci è precluso ancora adesso, nonostante le prime riaperture, tu l'hai sintetizzato in una immagine molto evocativa, che è quella delle canzoni d'amore. Sì, quella è una cosa che ha detto il sindaco di Tuzla, che è una piccola città della Bosnia, dove sono stato per un po' di tempo a lavorare, facevo dei laboratori con dei bambini in Bosnia, era molto bello, e ho incontrato questo personaggio clamoroso, che tra l'altro non mi ricordo neanche bene se è veramente sindaco di Tuzla, me lo sono sognato, non lo so, però mi ricordo di questo bosniaco che parlava meravigliosamente, ispirato, tutti prendevamo dalle sue labbra in questo italiano strano e bellissimo, e dicevo questa immagine delle canzoni d'amore che è quello che la gente vuole davvero, anziché lavorare, cantare le canzoni d'amore, poi si deve anche lavorare, però sai, al tempo forse, prima, comunque da lavorare ce n'era di più per riuscire a campare tutti quanti. Ora il livello di tecnologia, di possibilità meccanica, di liberazione dell'uomo dal lavoro è talmente grande che se le cose fossero amministrate in modo un pochino più razionale si potrebbero cantare un sacco di canzoni d'amore, lavorare tanto di meno, però il capitalismo lo impedisce e quindi non si cantano le canzoni d'amore che si potrebbero cantare. Senti, io ti volevo fare una domanda anche rispetto al tuo lavoro, appunto. Tu hai detto, insieme a Kepler 452, insomma, fai teatro, pian pianino si stanno riaprendo le cose, tu sei già andato in scena lo scorso weekend a Castello d'Argile con lo spettacolo Gli Altri. Com'è tornare su un palco? Bello e terribile, no? Perché gli attori, no? C'è questa cosa che si dice, gli attori sono superstiziosi, ed è vero perché facciamo un lavoro che non sai mai prima cosa succede quando sei lì. Cioè, tu ti puoi preparare all'infinito, e a differenza di un film che alla fine si fissa in quella forma, un attore ricomincia sempre da capo, cioè ogni volta che ricomincia uno spettacolo ricomincia da capo e non si sa mai cosa succede. Ed è una sensazione questa, che un brivido, ecco, che in quest'ultimo anno e passa, insomma, non è capitato così spesso di provare. Quindi, no, riabituarsi anche a quel brivido lì, a quel modo di rischiare ogni volta, di fallire, è sempre un'avventura. Però è bello, cioè io mi era mancato, quando ho cominciato al debutto, la prima replica, ho detto, mi era mancato stare qua con la gente, questo muro nero di umanità invisibile che hai davanti, era mancato. Avremo occasione di vederti con Gli Altri o con altri spettacoli a breve? Sì, adesso le date precise ancora non sono uscite, ma in giugno, Bologna, più o meno, secondo me Gli Altri si vedrà. Bene, bene, buono a sapersi. Allora io ti ringrazio e adesso ci andiamo a riascoltare il monologo che hai fatto appunto sul palco del 1° maggio qui a Bologna. Grazie mille. Di riproporlo, grazie. A te, buona giornata, ciao. Ciao, ciao.